Ben ritrovate e ben ritrovati a una nuova puntata di Coccoli al Silicio, una puntata estiva laddove un caldo torrido sta lasciando posto a un po' di frescura. È probabilmente l'unica puntata che ho fatto nel corso dell'estate da luglio fino ad ora. Ci ho avuto un po' di cose da fare, non ultima sopravvivere a questo bollente, bollentissimo agosto. Però non volevo andarmene in vacanza, non, cioè anche se le mie vacanze sono ridicole e risibili, cioè potevi andarci fino ad adesso, ma io fino ad adesso ho fatto ben poco, anche prossimamente faccio ben poco, infatti appunto la mia mancanza dalle voci di Radio Wombat è più dovuta appunto al tentativo di sopravvivere a questo caldo, e piuttosto che a grossi impegni. E non volevo però appunto saltare completamente l'estate, quindi ho pensato di fare una puntata proprio oggi, in un momento che non è il mio, perché appunto sto trasmettendo di martedì, ma in una zona diciamo libera da altre più o meno trasmissioni canoniche, per quanto ad agosto non ne sono rimaste molte. Volevo un pochino appunto raccontarvi qualche cosina delle cose che sono successe nel mondo dell'IT security, più o meno quella pa patinata, e cose spero interessanti, anche buttarvi lì qualche suggestione per lasciarvi appunto con i programmi futuri, principalmente dell'eClub Fiorentino IF2, che nel post hack meeting in realtà è ancora vivo. E anzi, se qualcuno di voi il mercoledì sera non c'ha proprio niente da fare, sappia che l'eClub Fiorentino si ritrova ancora il mercoledì sera presso il CSA ex Emerson di Firenze. Non ci troverete probabilmente un sacco di gente, non ci sono serate in programma, eccetera, ma un gruppo sparuto di smanettone e smanettoni, quello sì, probabilmente. E si vedranno anche questo pre-Ferragosto, anche quindi i domani, 14, e così pure per quelli a venire, per un ritorno più in pompa magna a settembre. E poi, attenzione, in una di queste riunioni è stato anche già più o meno deciso le date di un corso di reverse engineering, un po' per dare spazio a un discorso che era iniziato con l'hack meeting di quest'anno, ma che non aveva in verità trovato molto spazio nel suo svilupparsi in quel dell'hack meeting, perché appunto un evento molto concentrato e in termini di seminari, eccetera. Per quanto c'è stato un seminario quasi mistico di più di 3 ore in tarda serata, tenuto da Akbanni, e uno molto più ridotto, tenuto da me medesimo in persona, che dovrebbe essere stata un'introduzione. Ecco, appunto, però, siccome in quel seminario introduttivo io sostanzialmente avevo scritto abbastanza argomenti per parlare almeno 10-12 ore, ho pensato che, visto che non mi è riuscito di trattarli in una maniera troppo comprensibile né esaustiva in quel di Hack Meeting, ho pensato di spalmare questa mia idea su più sessioni dei ritrovi mercoledì dell'eClub. Partiranno a scaglioni di 2 settimane, le date le troverete presto sul sito di Fdura, io ve le potrei anche dire ma non me le ricordo. Comunque, da ottobre in avanti, ogni 2 settimane fino a dicembre più o meno, ci sarà questo corso di reversing di base, anche perché io quello posso fare, non essendo un eccelso reverser, ma essendo un aspirante tale che ci tiene però a condividere le difficoltà, le cose su cui mi sono imbattuto in questi anni di studio con qualcun altro, anche per trovare degli amici e delle amiche con cui condividere questa cosa, perché da solo mi annoio tanto e poi finisce che non lo faccio. Ecco. E appunto, dopo avervi dato questo panorama su ciò che l'Eclab IF2 sta facendo in quest'estate. Vi volevo raccontare di un pochino di notiziole interessanti che ho reperito in giro per il mondo. Alcune di queste, penso, in una parte successiva riguarderanno anche il reversing. Non sono in realtà notizie nuove. Volevo però provare a raccontarvi delle storielle interessanti legate a alcune figure di questo mondo, anche per incuriosire e vedere se si riusciva appunto a tirare fuori o qualche partecipante a questo corso in più, non perché temani diciamo la fuga di tutti quanti ai momenti in cui parlare di queste cose, ma mi piacerebbe appunto cercare di contestualizzarle perché questa cosa avesse un senso al di là dell'aspetto meramente tecnico. La prima notizia però di cui vi volevo raccontare riguarda in realtà il mondo Windows, è una cosa che mi ha fatto abbastanza sorridere, e cioè che i soliti maledetti di Google hanno tirato fuori una vulnerabilità che esiste da più di 20 anni nel sistema operativo Windows, quindi ovviamente da XP fino al moderno Windows 10. E riguarda una cavolatina, però piuttosto bella, perché è una cosa che tutti si sono dimenticati, è stata scoperta solo di recente. Riguarda un meccanismo abbastanza, diciamo, un demone di Windows abbastanza misconosciuto, che è appunto questo MSCTF, che dovrebbe essere un modulo di Windows, anche conosciuto come Text Service Framework, cioè una parte di questo framework che permette sostanzialmente di raccattarsi tutti i vari eventi e simili che hanno a che fare con i metodi di input, il layout della tastiera, diciamo la trattazione e il processamento di ciò che esce dalla vostra tastiera, ha a che fare anche con il riconoscimento della voce, quindi un demone che gestisce abbastanza in maniera totalizzante quelle che sono le interfacce testuali e vocali al computer, quindi non una cavolatina. Ebbene, questo demone pare essere completamente privo di controlli relativi agli accessi, cioè ai ruoli, per cui che voi siate un utente sfiga o un utente privilegiato, ecco, nel collegarsi a questo demone potete, con dei trucchetti piuttosto semplici da utilizzare, invocare comandi con qualsiasi altro come se voi foste qualsiasi altro utente che in quel momento è connesso alla macchina. Supponiamo che voi abbiate un accesso a una macchina Windows sulla quale c'è anche un accesso amministratore nello stesso momento. Ecco, voi potete lanciare un client per collegarvi a questo demone, fare finta di essere l'amministratore e volendo anche dare dei comandi o comunque cercare di vedere cosa l'amministratore sta facendo, comunque lanciare dei comandi in modo da sembrare, cioè di fatto in modo da eseguire i comandi in una sessione amministrativa. Quindi a quel punto anche probabilmente riuscire a elevare i vostri privilegi a system, cioè diciamo, il capo Ducazzo del sistema di ruoli e permessi e accessi del signor Windows, anche in Windows 10. E hanno rilasciato anche un comodissimo video, e da notare come il ricercatore che ha fatto ha detto di per sé già così si può fare qualsiasi cosa, però se non bastasse, comunque il demone che fa capo a questo diciamo, a questo sistema, pare essere scritto anche abbastanza in maniera vetusta, quindi probabilmente un pezzo di codice che non ha mai subito grosse modifiche, quindi è scritto in una maniera non troppo attenta alla sicurezza e quindi questo ricercatore ha sottolineato come se pure venisse in qualche modo isolato, in realtà scritto così com'è, permette anche, ci sono diciamo, varie problematiche più di sicurezza classica, tipo i overflow o cose simili, che probabilmente permettono, comunque di eseguire codice, in maniera, cioè con privilegi elevati, dal momento che questo daemon gira appunto, in kernel mode e con privilegi elevati. E questo è quanto, da quello che ho capito dalla lettura. O forse ho detto una cavolata dicendo che esegue in kernel mode perché non ne sono sicuro. Devo un attimo studiarmelo meglio questo, ma sicuramente esegue con privilegi elevati. E questo è quanto. Relativo appunto a questo bug, che la cosa buffa è uno che è abbastanza semplice da sfruttare, due che lo trovate da XP a Windows 10, tre che c'ha circa 20 anni e non era mai saltato fuori fino a quando appunto questi signori di Google ce l'hanno ripresentato in questa torrida estate. E vi lascio con un po' di musica, intanto preparo un'altra notiziola sui generis, questa volta relativa a Linux, appunto per par condicio e tant'è. La seconda notizia che vi volevo, siccome di cui vi volevo rendere partecipi, riguarda invece KDE, un window manager abbastanza diffuso in ambiente Linux. Ebbene, è stato scoperto che anche qui è un attacco piuttosto semplice, ma sostanzialmente se voi con un po' di abilità e di pratica di convincimento, ecco, riuscite in qualche modo a convincere un utente a scaricare un file punto desktop, cioè uno di quelli che vi disegnano l'iconcina sul desktop, ebbene, sappiate che in KDE, nel momento in cui voi visualizzate, o meglio, loro parlano di istanziare, questo punto desktop, quindi nel momento in cui lo visualizzate all'interno di, un file manager, oppure se lo copia e incollate, ad esempio, sul vostro desktop, ebbene, questo, effettua, un'espansione. Di alcuni campi che può trovare all'interno di questo punto desktop e in particolare espande anche, diciamo, valuta anche le variabili d'ambiente e espande i comandi della shell che vi trova all'interno. Quindi sostanzialmente, anche senza che l'utente ci clicchi sopra, senza che esegua il codice, ma semplicemente per visualizzandolo, riuscite ad andare ad eseguire dei comandi sulla macchina dell'utente che malauguratamente vi ha dato retta e ha appunto visualizzato l'iconcina dentro, cioè il punto desktop dentro il proprio file manager, oppure l'ha copia e incollato sul proprio desktop, o comunque la compio incollato tra i propri documenti. E il KDE ha patchato questa cosa semplicemente disabilitando appunto l'esecuzione di codice dall'applicativo kconfig, e in questo avrà perso un po' di versatilità, guadagnato un po' di in sicurezza, però tant'è che insomma, cioè fino alla versione, ora vi dico anche quale, quella della patch, fino alla versione 5.61 è possibile far eseguire dei comandi arbitrari con i privilegi dell'utente che li sta eseguendo, chiaramente, sfruttando questo stupido trucchetto. E questo è quanto anche per il mondo Linux. Un altro po' di musica e poi ci addentriamo verso altri universi. In particolare, provo a illustrarvi velocemente un nuovo modo di sfruttare degli attacchi tipo Spectre e Meltdown, che avevano un po' che avevano un po' tenuto banco l'anno scorso nell'ambito dell'IT Security. Ebbene, questo nuovo attacco è una variante a questi qua, ma che sfrutta un'istruzione, un meccanismo un pochino diverso. Tutti i test relativi sono stati fatti in realtà principalmente su Windows, non su ambienti Linux, tanto che la Microsoft ha già rilasciato una patch a questo proposito. E quindi nulla, dopo un pochino di musica provo a spiegarvi un po' di cosa si tratta. Allora, proviamo ad addentrarci in questo mondo strano e molto difficile da spiegare, soprattutto radiofonicamente. Vi ricordate più o meno, perché se ne è parlato tanto, che cos'erano Spectre e Meltdown e più o meno che cos'era la Speculative Execution. La Speculative Execution, brevemente, ve la riassumo, è una tecnica usata per aumentare le performance del vostro processore, che sostanzialmente esegue in anticipo dei pezzi di codice che trova all'interno di un programma, sperando che, eseguendoli prima, nel momento in cui il codice, il programma ci arriva, lui ha già i risultati e quindi è più veloce. Quindi sfrutta il fatto che comunque i moderni processori non possono fare le cose totalmente diciamo in contemporanea, ma possono cambiare velocemente tra una cosa e l'altra, e quindi infilarne uno in più, uno in meno, tendenzialmente sembra quasi più facile che non farle in maniera sequenziale. Per cui si tenta di saltare di qua e di là, cercando di indovinare dove il programma finisce, facendo già i conti e cercando di imparare un pochino dall'esperienza, cioè cercando di indovinare come il programma si comporterà, considerato che magari appunto un programma si comporta spesso secondo un percorso abbastanza definito, per cui dopo un po' imparo a capire quali sono i pezzi che è meglio eseguire e quali che no durante appunto l'esecuzione del programma in questione. Ecco, quello che hanno trovato questi ricercatori è che esiste un'istruzione che si chiama SwapGS, che tendenzialmente ha uno scopo ben preciso e che impatta abbastanza in maniera marginale sulla vostra vita, tendenzialmente, nel senso che non è una roba che uno scrive che utilizza ad alto livello. È qualcosa che sta sotto. È qualcosa che sta sotto e tendenzialmente serve nel momento in cui viene invocata quell'istruzione che nei processori a 64 bit serve a passare la palla al sistema operativo, cioè quando io invoco l'istruzione syscall. Ecco, quando invoco l'istruzione syscall, era stata pensato anche per una serie di motivi che ora non vi illustro perché sono un po' complicati, però un'istruzione che si chiama SwapGS, che sostanzialmente quello che fa è prendere un certo contenuto di questo diciamo di questo registro GS e swapparlo nel momento in cui entro in kernel mode. Allora, che cosa me ne frega di questo? Ma è tendenzialmente niente. L'unico problema è che appunto il nostro registro GS io lo posso in qualche modo comandare da utente, no? Quindi se poi posso contare sul fatto che nel momento in cui lui entra in un sistema privilegiato può leggere anche memoria che io normalmente non potrei leggere. Quindi siccome io lo controllo però questo registro GS, ci scrivo un valore che normalmente non potrei leggere, lui comunque tenta di leggerlo in maniera speculativa. Quindi non è che io riesco a leggerlo davvero, perché comunque mi viene restituita un'eccezione. Ma nonostante questo, lui, essendo che tenta di eseguire prima le istruzioni in un ambiente che non ha tendenzialmente controllo sugli accessi, comunque può lasciare traccia in memoria, nella cosiddetta data cache, di questa lettura, perché lui comunque l'ha fatta e soltanto dopo si è accorto, quando ci sono stati successivi controlli, che non doveva farla e quindi ha restituito un errore, però ormai l'ha letto. Quindi, se come avveniva per Spectre, io posso poi legittimi posso in qualche modo utilizzare un side channel attack, cioè tendenzialmente riuscire a capire i valori che ha letto, ecco che allora riesco a sfruttare questa istruzione, questa SwapGS, per leggere delle parti di memoria a cui altrimenti io non avrei accesso perché magari girano in un ambiente, appunto, girano in nel cosiddetto ring zero, cioè in un ambiente che è accessibile soltanto a quel livello lì. Io normalmente me ne sto magari in ring 3, però riesco dal mio ring 3 a provocare una lettura che non è effettiva perché restituisce appunto un errore, ma finisce comunque nella data cache, poi da andare a cercare di capire da questa roba, sfruttando un sidechannel attack, se il valore che ho letto. Se la lettura ha chiaramente andata a buon fine, uno gli può dire: boh, però che cazzo ne so di cosa leggo? E tendenzialmente sì, cioè è appunto quello che accadeva con le altre tipologie di attacco che comunque devo essere sulla macchina, devo cercare di capire cos'è interessante leggere, però di fatto lo posso leggere, quindi già da un punto di vista teorico questo attacco è abbastanza interessante, tanto più che pare bypassi sostanzialmente tutte le feature di sicurezza che erano state introdotte per mitigare i problemi di Meltdown e Spectre e quindi niente, quindi bypassa anche quella che è chiamata la KTP, cioè la lettura, diciamo sì, cioè, diciamo quella patch che era stata applicata ai sistemi operativi per evitare che uno potesse saltare a un po' di qua e un po' di là a leggere la memoria di cose che non li pertevano, pertinevano, non lo riesco a dire questa parola, quindi non la dico, chi se ne frega, tanto più o meno si era capito. E tant'è. Ora, dato che mi sono impelagato in questa cosa da cui penso che non ne uscirò vivo perché è piuttosto che complesso spiegarlo via radio, sarebbe complesso spiegarlo anche dal vivo per spiegare un pochino quegli altri attacchi. Avevo imbastito in quel di Accordai a Bologna, nell'XM24 che fu, perché purtroppo l'XM24 e anche a Club di Bologna sono stati sgomberati la settimana scorsa, no, all'inizio di questa settimana, scusate, e no, la settimana scorsa, ho detto una cavolata, sì, ho detto una cavolata, era la settimana scorsa, e quindi niente, però avevo allestito una specie di teatrino con delle persone che fisicamente rappresentavano i registri, uno faceva il clock, l'altro faceva il processore, alcuni facevano indirizzi di memoria, insomma, per arrivare a spiegare quella roba in una maniera forse più o meno comprensibile, mi sono inventato questa cosa qua proprio perché per limiti miei personali ci avrei molto problemi a spiegarlo in altra maniera. Quindi anche per radio, pigliatela un po' così, se vi interessa cercatevelo. Il numero di CVE che gli è stato assegnato è CVE 2019 1125, quindi guardatevelo. E comunque è una roba che addirittura, non sono sicuro, non penso ne abbiano scritto i quotidiani nazionali che magari sono presi anche da altre faccende tipo che casca governo e tutte il beach interessantissimo. Tour di Mister Salvini, però forse invece ne hanno scritto e ne avete sentito parlare vagamente, non lo so, in qualche rubrica di quotidiani o cose così, non lo so io cosa leggete. Voi. Comunque con queste belle cosine vi lascio e metto un altro po' di musica, non vi lascio, no, ancora un sacco da raccontare, no, non è vero, però un 20 minuti ancora li faccio buoni e quindi niente, un pochino di musica, io piglio un attimo fiato, mi riprendo da questa fatica di spiegare questa cosa per radio e passo a un'altra notiziola, questa spero più facile perché questa qui era proprio difficile, difficile. In the Nike E la prossima notizia riguarda sempre un argomento in cui si parlerà di Ring 0 e Ring 3, cioè di quelle cose che vengono eseguite a un livello in cui soltanto il kernel può e quelle che invece vengono eseguite a un livello in cui qualsiasi sfigatissimo utente può. Ebbene, è stato scoperto da alcuni ricercatori che una quarantina di driver di grosse, grosse case, tra cui si parla anche di Asus, della ATI, Gigabyte, Intel, Nvidia, Supermicro, Toshiba, Realtek e quant'altro. Praticamente permette. Cioè, insomma, i driver analizzati permettono, espongono in qualche modo delle interfacce, perché i driver è sostanzialmente un'interfaccia con il nostro hardware, no? Ecco, e quindi tendenzialmente il driver deve essere accessibile dagli utenti, altrimenti col cavolo che non che ci arrivo, diciamo, a usare la tastiera, a vedere le cose sul monitor, a usare il mouse, eccetera, eccetera. Però non devono essere manipolabili. Ecco, quello che hanno trovato questi ricercatori, che sostanzialmente è possibile, è possibile, partendo da lo user space, cioè il Ring 3, riuscire a far fare delle cose in Ring 0 al nostro sistema operativo utili nel momento in cui loro l'hanno indagato in questo senso, utili per celare backdoor e malware da occhi indiscreti e quindi renderli in qualche modo persistenti anche per anni, cioè renderli difficilmente rintracciabili o comunque trovabili dall'utente normale. E in realtà è ancora più interessante perché appunto l'hardware sta ancora al di sotto, no, del Ring 0, cioè il Ring 0 è già l'astrazione sull'hardware. E quindi sostanzialmente usando queste tecniche che per il momento non sono state ancora troppo dettagliate, è possibile fare una sorta di escalation di privilegi da Ring 0 a Ring 3 per celare e le backdoor o cose simili. Quello che hanno promesso gli sviluppatori di questa, diciamo, i ricercatori è che rilasceranno presto su GitHub i risultati delle loro ricerche. Attualmente il link che ho trovato nell'articolo punta ancora su un GitHub vuoto, quindi non c'è ancora. Nel momento in cui ci sarà però questo, ci saranno ancora queste cose, io vi avviserò e così le potrete andare a vedere. Ecco. E un altro pochino di musica e poi vediamo di chiudere con le ultime due notizie, così anch'io me ne vado a casetta. Quest'altra invece non è una notizia tecnica, è una notizia più legale e un po' anche di colore, nel senso che a me ha fatto un po' sorridere. Ebbene, la Epic Games, che è anche quella che somministra a tante persone nel mondo il gioco Fortnite, a cui io non ho mai giocato, ma pare lo usino tantissimissimissime persone, ebbene è finita sotto una class action per una serie di vulnerabilità rese pubbliche a tratti nei mesi scorsi e che sostanzialmente permettevano, e tra l'altro una di queste è abbastanza interessante, questa di gennaio 2019, perché era un modo interessante di sfruttare un cross-site scripting all'interno del gioco. che si traduceva nel sostanzialmente sottrarre il token di autenticazione di un utente legittimo e quindi poter fare tutta una serie di cose come se fossero quell'utente, quindi vedere, che ne so, accedere alle informazioni personali, comprare. Visto che questi giochi spesso hanno anche questo meccanismo, per cui se vuoi una cosa la devi acquistare, se vuoi una future la compri, e puoi acquistare l'equipaggiamento del gioco anche, no? Quindi il tuo personaggio poi diventa più ganzo, con altri, con il portafoglio virtuale dell'utente, cioè con qualche altro utente. Ebbene, sostanzialmente la Epic è stata citata in giudizio dagli utenti che si sono sentiti truffati in questo senso, si sono uniti e hanno detto: vabbè, voi però ci avete chiappato i soldi, poi non ci avete tutelato e quindi noi adesso vi facciamo causa e vi chiediamo i danni. È molto buffo questa cosa. È un mondo questo che io onestamente non conosco, questo dei giochi online, non lo apprezzo neanche particolarmente come concetto, ne ho sentito anche parlare bene anche da persone assennate e razionali. A me comunque non è una roba che mi esalti, e tra l'altro di Fortnite, eccetera, anche di altri giochi, mi lascia molto perplesso questa tendenza al costruire figure pro. Nel senso, gente che gioca, fa i tornei, vive e guadagna di queste cose, che mi sembra una roba abbastanza deleteria. In qualche modo sono un bacchettone moralista, probabilmente, però faccio fatica a digerirla come faccio fatica a digerire, che ne so, gli YouTubers o tutta questa roba qui. Cioè, sono contento per loro se riescono a guadagnare dei soldi sostanzialmente non facendo. Cioè facendo una cagata come giocare al computer, però mi sembra che venga completamente meno l'aspetto ludico di questa cosa. Beh, è vero che questo ragionamento vale praticamente per tutto, qualsiasi cosa passa a una dimensione agonistica, quindi vale tendenzialmente per qualsiasi sport, però effettivamente la mia posizione è esattamente questa, cioè il professionismo uccide la passione per le cose e tant'è. E quindi niente, mi piaceva raccontarvi anche questa cavolatina. E con questo magari chiuderei questa puntata con una che non è una notizia, in realtà è un nome che volevo lanciarvi lì perché voi approfondiste da soli in vista appunto di questo corso base di reversing che dovremmo tenere in quel del Next Emerson nei mercoledì dell'Eclaba. Infatti una cosa che mi sono dimenticato forse di accennare è che l'Eclab, che l'anno scorso si trovava in polveriera, da quest'anno si trova per una serie di motivi logistici in quel del Next Emerson, nonché probabilmente non faremo altre puntate e iniziative in quel della polveriera, però il laboratorio in sé per sé è stato trasferito in quel del Next Emerson. Il giorno di ritrovo è rimasto identico e appunto da ottobre fino a dicembre si dovrà tenere in alcuni di questi mercoledì anche questo mini corso di reversing. Quindi per incuriosirvi volevo citarvi un nome buffo e leggendario del reversing, facendo un po' di storia anche di questa strana, stranissima pratica un po' esoterica, ma abbastanza interessante perché c'è anche una sua profondità in qualche modo filosofica. Ma tutto questo dopo un po' di musichina. dopo avervi un pochino incuriosito, vi svelo questi nomi che magari conoscete già, non è una cosa che è un mistero, però se non sapete niente di reverse engineering, forse potreste partire da guardare, cercarvi su internet la parola Fravia, che era un nickname che probabilmente corrispondeva a, no, sicuramente corrispondeva a Francesco Vianello, che era un reverser sostanzialmente, un hacker che in anni addietro fu protagonista di quella che era la prima scena del reversing, quella che banalmente, cioè banalmente, quella che molto faticosamente craccava i giochi e le protezioni dei programmi. E lui fu appunto un professore di quella che era nota come High Cracking University, la HCU, che era stata fondata da un altro personaggione, tale Old Red Cracker, il quale era un'altra figura di queste un po' mitiche leggendarie, perché erano quelle tendenzialmente quando uno craccava qualcosa, poi lasciava la propria firma. Se voi siete appassionati un po' di retrocomputing, vedete che molti giochi che trovate da far girare negli emulatori, o se siete fortunati, che possedete questi vetusti oggetti tipo Commodore 64, Amiga, Atari ST o insomma robe di questo genere, molti giochi hanno prima dell'inizio del gioco anche una mini demo di chi ha craccato il gioco per voi. Craccarlo significava sia sproteggerlo, ma anche ad esempio, che ne so, mettere un menu dove ti facevano selezionare le vite infinite, l'invulnerabilità, le armi infinite e tutte queste cose qua. Ecco, da quel periodo, a un certo punto nasce, in realtà questo nasce un pochino dopo, non è proprio in quel periodo, è un pochino dopo, però nasce quando si diffonde l'utilizzo dell'internet. Questa High Cracking University, che aveva come scopo una cosa molto interessante, cioè per farne parte dovevi pubblicare dei tutorial fatti bene, più venivano fatti bene e più tu avevi chance di diventare professore di questa cosa. E questi tutorial dovevano essere pubblici e dovevano riguardare la scena del cracking. Questo Old Red Cracker fu infatti uno dei primi a tirare fuori questi tutorial della serie How to Crack, che erano delle vere e proprie lezioni che tu trovavi su internet, e in qualche modo questo ti faceva entrare nell'ambiente dei cracker. Poi tu potevi quindi anche in qualche modo dei reverser, no? Quindi tu entravi in questo ambiente, ne diventavi parte, imparavi quello che avevi imparato e eri spinto a restituirlo, scrivendo a tua volta altri tutorial che aiutassero i novelli a entrare in questo buffo mondo. Un approccio interessante allo studio, e un approccio interessante alla diffusione dei saperi, della conoscenza, eccetera. E quindi niente, siccome noi parleremo appunto di questo buffo mondo che è quello del reversing, era anche interessante nominarvi qualche nome che poi volete approfondire da soli, cercare in giro, insomma, cercare di capire che cos'era questa scena, eccetera, spulciare nelle vecchie fanzine. Ci sono ancora repo su internet che mantengono, che ne so, il sito originale di Fravia, o cose simili. Ma anche ve vecchie fanzine, e in qualche modo assaporare il clima che si respirava un poco in quegli anni. Non come mera operazione nostalgica, ma anche come operazione che restituiva una dignità storica anche a un fenomeno prettamente underground, ma super, super interessante, nel senso che la filosofia del reversing è alla fine una filosofia molto interessante, al di là dell'aspetto tecnico, perché il meccanismo di approfondimento che ne consente è quasi alla base. base di una critica consapevole delle tecnologie, per quanto non serva una comprensione strettamente tecnica, magari diciamo, per maturare un atteggiamento critico nei confronti del mondo in cui viviamo. È anche vero che più la nostra comprensione è approfondita e più la nostra critica in qualche modo sarà puntuale, precisa, sarà piena di aspetti che non la rendono meramente banale, no? Nel senso che è una critica al mondo, anche dire il mondo dovrebbe essere parecchio più libero. È una critica però molto generica. Nel momento in cui la mia critica diventa invece strettamente particolare, soprattutto nel campo della tecnologia, che è un campo che spesso si trova come approccio a spaccare il capello in quattro e poi in altri quattro, quattro e quattro, è una capacità di comprendere questo mondo e quindi di criticarlo anche in maniera dura e radicale, a partire però da questo tipo di conoscenza, è secondo me uno degli aspetti più interessanti di questo tipo di approccio ed è un qualcosa che ha un sapore anche un poco filosofico. Con questa menata sostanzialmente chiudo, vi lascio ancora un po' di musica. E poi vi do appuntamento alla prossima puntata di Coccoli al Silicio, che sarà probabilmente o l'ultima settimana di agosto o la prima di settembre. Ciao a tutte e a tutti, bonne nuit, me ne vado con il fresco che è sceso in quel della regia del Wombat, quindi forse non morirò di caldo tornandomene verso i miei ripari notturni.